c'è qualcuno qua? CQ10. Hola, CQ10. CQ, c'è qualcuno qua? Chi è che sta frusciando? Giammaria, sono stato affrontato, se funzionava. E pare che sia funzionando, Giammaria, se ti intendo vuol dire che funzionando. Ciao, buongiorno, buona domenica, Giammaria. Ehi, buongiorno, non ti ho capito tutto anche casa, vai. E siccome l'apparecchio non l'accendevo questo, e stavo affrontato, e non mi ero accorto che era su 10. E io pensavo che fosse su 23, va bene ugualmente, Natalia. E l'importante è che qualcuno ti abbia risposto. Io ero in ascolto qua. Ok. Va bene, ok, va, buona domenica ancora, vai, ci sentiamo, la taglia funziona comunque. Sono tranquillo, ciao. Ciao, ciao. Buon tutto, buon proseguimento. Chi è avanti? Avanti, chi è? Amico, non stai uscendo dal radio, Chi è? Chi è? Avanti! Attenzione, Giulio, se sei in ascolto. C'è qualcuno qua in ascolto? CQ10? CQ canale 10, c'è qualcuno in ascolto? C'è qualcuno qua? Sì,